Il gastronauta di Davide Paolini. Buona giornata a chi è in vacanza, a chi sta andando, a chi andrà in vacanza, ma anche a chi resta a casa, magari si permette semplicemente un weekend o una giornata magari dove fa più fresco. Ebbene, proprio per questo noi abbiamo pensato oggi di fare un giro d'Italia per andare a scoprire quali sono i ristoranti dove si può mangiare con i piedi nell'acqua. È evidente che questa è una metafora, perché sicuramente con i piedi nell'acqua è un po' difficile poter mangiare, ma significa quasi nell'acqua, vicino all'acqua, sopra l'acqua. Quei ristoranti, insomma, dove il mare lo hanno talmente vicino che quasi si entra metaforicamente appunto coi piedi, e magari coi piedi sotto il tavolo si pensa di essere in mare. Magari ci sarà anche qualche ristorante in giro per il mondo dove si può mangiare direttamente col tavolino nel mare, per carità. E anzi, se ci fosse qualcuno che lo conosce, se ce lo segnala, magari la prossima volta ne parliamo molto, ma molto volentieri. Bene, noi per il momento cercheremo di raccontarvi e di farci raccontare quello che esiste, quello che abbiamo scoperto. E veramente abbiamo messo in piedi un tour d'Italia, proprio diciamo in quei territori, in quelle aree dove oggi sono concentrate le vacanze di molti, o anche i viaggi, come dicevo, di una sola giornata. E vorrei cominciare questo viaggio dalla bellissima Calabria, da Scilla, provincia appunto di Reggio Calabria. E andiamo a un ristorante, che è il ristorante Gabbiano, che è un bagno, se non erro. Era un bagno, ma che si è anche trasformato in ristorante. E magari ce lo facciamo spiegare da Loredana Guinicelli. Buongiorno Loredana. Allora, dove c'è, cioè, questo suo ristorante? È un bagno, vero? Sì, nasce come Lido, una spiaggia attrezzata nella Costa Viola, tra Scilla e Cariddi, proprio dove Ulisse incontrò le sirene. E abbiamo creato un ristorante che funziona anche d'inverno, quindi piedi in acqua davvero in inverno, quando ci sono le mareggiate che ci toccano da vicino praticamente. Ma io penso che sia più affascinante d'inverno, con la mareggiata, che d'estate con molta gente. E però volevo tornare sulle sirene. Bene, speriamo che le sirene tornino, che ci siano ancora, magari che l'immaginario mentre si mangia ci porti alle sirene. Ma cosa si mangia? Cosa si può mangiare nel suo ristorante ora d'estate? Poi magari vedremo anche l'inverno, ma d'estate, in questo periodo. Noi siamo specializzati in fritture di pesciolini proprio della Costa Viola, come le costardelle, i surici, la fragaglia, che sono dei pesci proprio piccolini che vanno mangiati interi con tutta la testa. O abbiamo degli antipasti di crudi molto, molto estivi, molto freschi, particolari. Delle paste fresche col pesce spada. Abbiamo una cucina molto rustica, molto vecchio stile. Beh, quella che la mamma, va? È quella che ci vuole la nonna. Abbiamo proprio questa cucina casereccia, con l'olio verace di casa, il pesce pescato ancora veramente dai pescatori a Lenza. Insomma, cerchiamo di mantenere la tradizione. Senta Loredana, lei all'inizio ha nominato una serie di specie di pesci che buona parte del pubblico non conosce, che sono le cose migliori, sono sì, quelle che appunto non il solito branzino, non il solito tonno ed altro. E credo che questo sia veramente straordinario, poter mangiare questi pesci, perché sono quelli sicuramente che ancora sono i più sani, i più veri, e sono quelli che, pur essendo poco conosciuti, sono quelli che permettono anche una cucina molto più verace. Non so se lei è d'accordo su questo. Sì, io sono assolutamente d'accordo. Senta, e dopo aver mangiato pasta e questo pesce, con cosa si può chiudere il pranzo o la cena? Gelati artigianali che fanno qui in zona, con materie prime di altissima qualità, al pistacchio di Bronte o alla nocciola o al cioccolato. Insomma, rimaniamo sempre su una cosa sempre locale. Facciamo d'inverno, abbiamo dei dolci fatti in casa, d'estate un po' meno perché è più difficile, ma d'inverno facciamo i cannoli, li facciamo noi, facciamo un tiramisù molto leggero. E cosa si può bere? Cosa si può bere di calabrese, magari un vino fresco, estivo? Io non sono una sostenitrice del vino calabrese, devo dire, preferisco i vini siciliani. Abbiamo dei vini calabresi, abbiamo il Critone di Librandi. Certo, un buon Chardonnay. Abbiamo la Cantina Edoardi che fa dei rossi abbastanza importanti, abbiamo tanti vini siciliani. Bene, comunque il Critone mi piace molto, è un ottimo Chardonnay, quindi potrebbe essere quello giusto per i piatti che ci ha indicato. Bene, ci dica però il suo preferito siciliano. Su. Il mio preferito siciliano di quest'anno è Coste all'ombra di Maurigi, che è un Sauvignon Blanc buonissimo, profuma di frutta, si sposa a meraviglia con i crostacei, con i nostri crudi, quindi è il mio preferito in assoluto quest'anno. Bene, io le auguro una grande estate e un buon lavoro. Lo ripeto, ristorante Il Gabbiano Scilla di Reggio Calabria. Abbiamo sentito questi piatti invitanti, soprattutto questi pesci così sconosciuti a molti sicuramente. Bene, ora andiamo in Abruzzo. Andiamo in un trabocco meraviglioso di Punta Cavalluccio, straordinario, dove magari si mangia il pesce che si vede che è orlandino. Lo sta pescando. E allora non so, Orlandino Veri, cosa sta facendo in questo momento. Orlandino, stai pescando? Sì, sto sul trabocco, sì. Immaginavo. E allora, che succede? È buona la pesca? Buon pesce c'è quest'estate? Si trova bene? Come lei sa, signor Paolini, quest'anno il pesce si è molto dimezzato. Ah, cosa ci sta? Guarda, c'è il 50% in meno. L'Adriatico piano piano si sta veramente ammalando. Però molta quantità non ce n'è. Però un po' di fritturino, un po' di panocchi, un po' di frutti di mare che peschiamo noi, qualche riccio, qualche cosa, riusciamo ancora a tirare avanti, a far degustare le nostre cose buone dell'Abruzzo. Senta Orlandino, ma ha detto che il mare si sta ammalando. Questo è importante. Si sta ammalando perché? Dall'inquinamento? Non è per l'inquinamento, signor Paolini, è troppa attrezzatura al mare, ci vuole un po' di riposo, ci vorrebbe, non lo so, come diceva mio nonno, qualche annetto di fermo. Hanno fatto delle reti americane, hanno distrutto un po' questo mare, capito? Adesso bisogna riposarsi un po' per farlo riprodurre, sono qua il pesce all'Adriatico, come lei sa, è già piccolo l'Adriatico. Quindi lei dice che c'è stata pesca selvaggia, insomma? Sì, bravo, sì, questa questione qua. Ho capito. Senta Orlandino, però insomma al trabocco di Punta Cavalluccio un po' di pesce si trova sempre, insomma. Sì, lo prendiamo sempre, sì. E la moglie cosa prepara quest'anno tra le paste di particolare? Ce n'è una particolare? Adesso quest'anno abbiamo le cozze molto buone. Facciamo le sagnette di casa fatte con le cozze, facciamo la frittolina, se tutto antipastino, tutte preparazioni giornaliere, pesce molto buono. Senta, ma le cozze, ha detto, quest'anno sono buone, sì. Perché vanno a periodi le cozze? Ma sì, sono annate, l'anno scorso non erano, diciamo che non erano buone, ma quest'anno, guarda, sono speciali, non buone. Ah, quindi quest'anno è l'annata delle cozze, insomma. Sì, buonissime, sono proprio perfette. Quindi spaghetti con le cozze a go-go, insomma. Spaghetti con le cozze, cozze ripiene, cozza alla tarantina, facciamo le cozze, poi fra un mese non ci sono più le cozze, facciamo qualche zuppetta, facciamo altre cose, ogni mese cambiamo come le sa il pesce, se ne va il pesce vecchio arriva il pesce nuovo, ogni mese cambia le qualità del pesce. Diciamo anche quando è la chiusura del trabocco, perché magari verso la fine di settembre, signor Paolino. Benissimo, grazie Orlandino Veri. Arrivederci. Il trabocco di Punta Cavalluccio, Fossa Cesia. Il gastronauta. Eccoci di nuovo, cari gastronauti, come dicevo, in giro per l'Italia a scoprire il ristorante che io ho chiamato coi piedi nell'acqua. Lo rispiego perché magari qualcuno può pensare che questo caldo mi ha dato un po' la testa. Cosa significa? È una metafora, ovviamente, quei ristoranti, quei luoghi dove a pochi metri c'è l'acqua, oppure c'è una grande terrazza sul mare, oppure si può mangiare in vista spiaggia o in spiaggia. Sono quei ristoranti che in questo momento sicuramente tutti stanno cercando, sia per il caldo, ma sia perché sicuramente sono posti meravigliosi. E uno di questi è veramente di quello di cui vi parleremo ora, è perché questo posto è a Fiascherino. Fiascherino, salendo da Lerici, c'è un'insenatura straordinaria dove c'è uno stabilimento balneare che si chiama l'Eco del Mare, che si può vedere dalla strada ma si può vedere anche dal mare, che quindi è veramente un posto molto ma molto fascinoso. E io molte volte vedendolo ho sempre pensato se si potesse mangiare lì sulla spiaggia, ma ora chiediamolo a Francesca Mozer. Buongiorno Francesca. Buongiorno. Caspita che presentazione, grazie. ci sono arrivato anche a nuoto, va bene comunque. Dovevamo conoscerci, dovevamo incontrare. Sì, magari una volta ci incontreremo anche. Ecco. E io so che da pochi giorni, anzi da poche settimane, avete riaperto questo luogo meraviglioso, e so anche che ora si mangia. Si mangia e giustamente con i piedi nell'acqua. Non so se si riesce a sentire, ma c'è proprio il rumore si sente. Che ogni tanto disturba del mare. Si sente come. E quindi si mangia ora? Si mangia sia sulla terrazza vicino al mare che sotto l'ombrellone, giustamente. Per i più pigri, per coloro che non vogliono spostarsi troppo dall'ombrellone, facciamo questo servizio e quindi, diciamo, con il piede praticamente nell'acqua si possono degustare le cose proposte dal nostro chef. Ce ne racconta qualcuna? Ma lui è molto geloso dei suoi piatti e praticamente ci informa all'ultimo momento dei menù che si inventa durante la notte, e quindi lui lavora soprattutto con della pasta artigianale, quindi piatti molto semplici ma curati nei dettagli, della qualità. Quindi lui si ordina i suoi pesci, si inventa le sue cose, e non so, abbiamo degli antipasti che sono cinque piccoli assaggi locali, ci sono le acciughe, le cozze, c'è del baccalà. Oppure ci sono dei secondi che spaziano dalla catalana alla novità, che è un cartoccio in carta fata trasparente che si vede quello che c'è dentro ma è cotto al cartoccio. E poi ci sono i nostri dessert che abbiamo scoperto che stuzzicano il palato anche di quelli che non sono golosi. Ce ne dice uno in particolare? Ma la nostra specialità è il latte in piedi con vaniglia del Madagascar. Ah, benissimo, latte in piedi, perché questa definizione si trova nell'Artusi e l'ho risentita poche volte riproposta, quindi è bellissima questa del latte in piedi, perché dà già l'idea, latte in piedi con i piedi nell'acqua, secondo me c'è così un contrasto abbastanza forte. E cosa si beve? Si beve Ligure, ma si beve anche fuori dalla Liguria, immagino. Sì, no, diciamo che abbiamo cercato di fare una lista di vini abbastanza semplice e compatta, che comprende più che altro i vini locali, che sono, diciamo, molto buoni, soprattutto quelli delle Cinque Terre, i nostri vermentini, i nostri pigati. Però diciamo tutte cose, anche queste abbastanza piccole, non conosciutissime, però sono tutti prodotti un po' da enoteca, un po' da gourmet, da ricerca. Bene, io volevo anche capire questo, cioè si può venire solo a mangiare oppure bisogna venire nello stabilimento balneare? Questo è importante per i nostri radioascoltatori. No, diciamo che il nostro motto è che la libertà è il bene più esclusivo, quindi non posso obbligare nessuno a fare il bagno se non ne ha voglia, ma se vuole degustare i piatti può farlo liberamente, venire a prendere un aperitivo con i piedi nell'acqua. E se vuole fermarsi in spiaggia è una sua scelta, però diciamo che è aperto a tutti il ristorante, sia ai clienti dello stabilimento che a quelli che vengono da fuori. Bene, allora io lo ricordo, l'Eco del Mare a Fiascherino, quindi salendo da Lerici ci si può arrivare anche dal mare, quindi sicuramente ci sono vie diverse. Ringrazio Francesca Mozer, grazie. Grazie a te. A presto, e continuiamo questo viaggio da Fiascherino di Lerici. Ora andiamo a Capri e andiamo veramente sulla Grotta Azzurra, incredibile ma vero, qui i piedi nell'acqua sono sulla Grotta Azzurra, oddio, ci vogliono dei piedi molto lunghi, però sicuramente magari scendendo le scale, poi facendo un bagno dopo aver mangiato delle cose molto succulente, dopo essere passato in una stanza particolare che ora ci faremo raccontare, ci si può buttare anche a mare. Buongiorno a Francesco Mussinelli. Buongiorno, ci sente? Forte e chiaro. Ci vuole raccontare un po' del Riccio, questo bellissimo locale con i piedi nell'acqua di cui ho parlato? Il locale ha la roccia nell'acqua, i piedi, con una raccomandazione di aspettare 2 ore prima di fare il bagno dopo aver mangiato. Beh certo, insomma, se no... E non è necessario fare le scalette perché ci si può anche buttare di testa o a cannolicchio dalla terrazza. Ma c'è un servizio medico, sì? Volendo, sì. Pronto, abbiamo così anche il bagnino, per cui insomma... Ah, benissimo, benissimo. E la Grotta Azzurra è a poche bracciate, più che a pochi metri, direi, sì, dalla nostra terrazza sul mare. Senta, Francesco, visto questa vista sulla Grotta Azzurra, visto, diciamo, questo locale molto particolare, è evidente che c'è una cucina molto marinara. La cucina è decisamente marinara, con il pesce che viene pescato anche nella zona, c'è... Il pesce bandiera, ci sono naturalmente cozze, vongole, pezzogne, tutto quello che caratterizza l'aspetto marinaro del Golfo di Napoli. E poi c'è la Camera delle Meraviglie, cui accennava poc'anzi, che vede come protagonisti i dolci, e dunque questo buffet cui gli ospiti possono accedere dopo, alla fine del pasto, insomma, dopo aver fatto incetta di frutti di mare, di pesce crudo, e tante meraviglie che la nostra terra, anzi il nostro mare, ci offre, per concludere nel modo migliore un pasto veramente, direi, con i piedi nell'acqua, perché siamo a pochi metri. Ecco, il cuoco del Riccio ha dei piatti molto particolari. Decisamente sì, dai... I più classici naturalmente sono gli spaghetti a vongole, che sono imprescindibili, però i ricci di mare, i carpacci, i pesci crudi, la pezzogna come il pesce bandiera. Ecco, ma visto che si chiama Riccio, il Riccio ha una motivazione particolare, nel senso che il riccio è un po' il simbolo, cioè, di questo pesce appunto che caratterizza la cucina, oppure c'è qualche altra motivazione, diciamo, che non è quella culinaria? Dunque, in passato si andava a Doriccio, perché il precedente proprietario era, a differenza mia, buon per lui, ricciolino, e i capelli li ha tenuti. Ah, quindi ecco perché. E da lì, e poi, visto che adesso ogni tanto facevo una capettina e che di riccio ormai non ho più nulla, abbiamo pensato di mantenere il nome, mutandolo però nel riccio di mare, che oggi è protagonista in tante tavole. E da lì, con dunque un leggero ritocco al nome, invece che Addoriccio, cioè dal ricciolino, è il riccio, e tutto è giocato sul discorso del mare, sui colori di Capri, l'azzurro, il bianco, e la presenza dei ricci è comunque costante come decorazione anche sui tavoli, come elemento di arredo. Ne abbiamo fatto un po' una bandiera. Bene, un'altra cosa volevo chiederle, quindi uno può venire e mangiare solo oppure prendere anche il sole? Può venire, mangiare e prendere anche il sole se desidera. Abbiamo un solarium e 2 o 3 terrazze che richiamano un po' i terrazzamenti liguri, visto che io sono di La Spezia. Prima parlavate di Fiascherino, per me è stato un ritorno alle origini. E sulle terrazze si può prendere tranquillamente il sole. Abbiamo poi un servizio anche di bar, per cui è possibile degustare qualche cosa, uno snack, come bere una bibita, con tutti i servizi poi di un ristorante. Bene, grazie. Il Riccio, appunto, dicevo, a Capri, proprio sopra la Grotta Azzurra. Grazie a Francesco. E ora facciamo un salto da Capri, andiamo a Ventimiglia, andiamo alla Baia Beniamin, altro posto splendido sulla spiaggia. Buongiorno, Carlo Brunelli. Buongiorno dottor Paolini, come va? Bene, lei tutto bene? Io benissimo, allora, in questo periodo poi ancora meglio, si lavora, c'è tanta gente e c'è tanto caldo. Si può sempre mangiare coi piedi nell'acqua? Sempre coi piedi nell'acqua, e quando il mare non è buono si arriva l'acqua anche sul terrazzo, lei lo conosce, lo sa, che siamo proprio a pelo sull'acqua. Ecco, e quali sono le novità gastronomiche? Ci sono novità gastronomiche? Novità gastronomiche, beh, come lei sa benissimo, noi usiamo tantissimo crostacei. Il nostro piatto simbolo oramai della Baia, che anzi quest'anno festeggiamo i 25 anni, è un piatto che veramente fa parte della nostra tradizione, è la grande insalata di mare, che è un trionfo più che un piatto, va mangiata a 2 minimo. È un piatto molto, quindi è un piatto per 2, questo è importante. Riesco a farne anche 30-40, faccio delle enormi tavolate, ed è composta da tutti i crostacei, dalle aragoste, dagli astici, gli scampi, i gamberoni, le conchiglie, i calamari, c'è di tutto, è veramente, praticamente è un piatto unico e si mangia quello poi, e poi normalmente si passa al dessert perché non si può andare oltre. Poi un altro piatto che sempre fa parte della tradizione, soprattutto ligure, sono i gamberoni di Sanremo, conosciuti penso oramai in tutto il mondo, che in questo momento li serviamo leggermente scottati su un'insalatina di finocchi croccanti ed erba cipollina ed un'emulsione di olio e limone. Senta, semplicissimi, però buonissimi. Carlo, io la fermo un secondo, voglio solo chiedere questo. Dà le indicazioni come arrivare da voi? Per arrivare da noi bisogna seguire... prendiamo come punto Ventimiglia, prendere l'Aurelia e venire direzione Francia, al bivio del paesino Latte tenere la sinistra e costeggiare sempre il mare, avanzare ancora 2 chilometri circa, e si trovano un grande cancello in ferro battuto, si scende fino al secondo parcheggio, perché abbiamo un parcheggio a livello dell'Aurelia, però usiamo solo quando c'è tanta tanta gente, altrimenti abbiamo un parcheggio un po' più basso. E poi bisogna scendere a piedi i famosi gradini e passeggiatini in mezzo al nostro parco. Bene, grazie e buon 25 anni alla Baia Beniamin. Il gastronauta. Cari gastronauti, cari radioascoltatori, cosa c'è di più bello di mangiare d'estate col caldo con i piedi nell'acqua? Ovviamente l'ho già detto, è una metafora nel senso che non sempre si possono trovare dei ristoranti dove si può mettere il tavolo proprio in mezzo al mare o a pochi metri dal mare o a pochi centimetri dal mare. Si può mangiare in spiaggia, ma si può mangiare anche magari sopraelevata, un posto sopraelevato sopra la spiaggia e avere questa impressione di mangiare con i piedi nell'acqua. Ebbene, questo succede a Ischia, succede a Forio di Ischia, in un posto molto magico che si chiama Umberto a Mare. Magico perché mentre si mangia, specialmente alla sera, si sente il mare, si sente la brezza e di giorno si vede veramente il mare, ma anche d'inverno da una vetrata si vede il mare. E allora facciamoci raccontare da Umberto Regine, che è lo chef che gestisce con il fratello appunto questo ristorante a Forio d'Ischia. Qual è appunto il segreto magico di questo ristorante, ma anche di che cosa si mangia? Buongiorno Umberto. Buongiorno signor Davide. Allora, qual è il segreto? Ma il primo segreto è avere la fortuna di avere un nonno che tanti anni fa, insomma, ha visto lontano, molto lontano, e quindi ci ha lasciato in un posto, come lei sottolineava prima, magico in quanto, insomma, dalla terrazza del ristorante vediamo l'orizzonte, vediamo quasi tutti i giorni il sole che va giù nell'acqua, insomma, quindi si creano delle situazioni ambientali particolarissime, rare, forse per noi non tanto perché lo godiamo quasi tutti i giorni, siamo molto fortunati, però per i tanti avventori del nostro ristorante sono situazioni emozionali forti, insomma. Questo è... Ecco, il vostro locale, appunto la vostra offerta, si basa soprattutto su quei pesci che spesso non vengono molto considerati o sono poco conosciuti, perché tutti oggi cercano il tonno rosso, ma magari non se ne accorgono neppure che gli viene propinato il tonno a pinne gialle, ma questo è un altro discorso che abbiamo fatto più volte su questa trasmissione. Ma state alla ricerca appunto di pesce non azzurro, ma degli azzurri, perché da voi si mangia spesso palamita o palamita, dipende dalle aree d'Italia, questo nome come dove viene usato l'accento, l'ala lunga, che secondo me sono, io devo dirlo, ma magari qualcuno dirà che sicuramente capisco poco, ma fa niente, io le apprezzo molto più del tonno perché sono molto più delicati come carne. Ecco, ma c'è la possibilità di poter fare una cucina andando alla ricerca di questi pesci che non sono quelli che tutti i clienti chiedono tutti i giorni? Io gradirei fare una premessa su questo discorso. Noi, in quanto famiglia ischitana da sempre, siamo stati sempre abituati a mangiare quello che magari viene definito pesce povero. Questo perché, diciamo, le persone dell'isola spesso erano abituate a consumare quel pesce perché l'altro andava in terraferma per essere venduto per le tavole dei signori, insomma. Quindi la nostra cultura parte proprio da quello. In più poi ci mettiamo la curiosità di andare oltre oppure al di fuori del seminato, insomma, perché per una persona che lavora in cucina riuscire a percorrere percorsi alternativi pure è un motivo in più di stimolo per fare cose piacevoli. L'ala lunga è un tonno, è il tonno bianco, e quella è quella che quest'anno stiamo lavorando in modo particolare, perché con la nuova legge sulla tutela del tonno in particolare, che è partita dai principi di giugno, per noi è diventato molto difficile riuscire ad acquistare anche diciamo il fratello povero del tonno rosso, che è il pinna gialla, perché le quote pesca obbligano insomma i pescatori a pescarne un tot e spesso non si riesce a reperire. Ma io posso dire che questa è la fortuna perché si possono assaggiare altre specie. Io vorrei ricordare ai nostri radioascoltatori che il cenno che è stato fatto da Umberto è a questa diciamo normativa europea in cui impone delle quote per la pesca del tonno rosso con le tonnare tradizionali e diciamo il blocco per le tonnare volanti. Quindi di tonno rosso del Mediterraneo se ne trova veramente molto, ma molto poco. Il problema è che in Italia arriva moltissimo pesce di importazione e su questo io più volte così ho fatto anche delle trasmissioni ponendo delle attenzioni su cosa arriva, sui controlli sanitari e su altro. Però vorrei tornare a Umberto proprio a chiedergli questo: ci sono ancora pescatori nell'isola d'Ischia, cioè si trova ancora molto pesce oppure arriva molto pesce da fuori? Allora, la marineria ischitana non è molto grossa, perché Ischia insomma nei vari anni si è attestata come punto di riferimento per il turismo estivo e quindi molti pescatori hanno lasciato un lavoro molto più faticato per magari lavori un po' più leggeri e più redditizi, insomma. Però abbiamo la fortuna di essere vicini e quindi cugini di isola con Procida, che vanta una delle marinerie più grosse del Golfo di Napoli e di tutta la Campania, insomma. Quindi già appoggiandoci ai pescatori di Procida riusciamo ad avere tutto quello che, insomma, di cui abbiamo bisogno. Poi in particolare sull'isola comunque c'è la tradizione della pesca del pesce azzurro e quindi tutto quello che è pesce azzurro, come prima tu dicevi, la palamita, l'ala lunga, l'alletterata, il maccarello, insomma sono tanti i pesci che, lavorati nel modo giusto e poi soprattutto serviti appena pescati, possono dare non poche soddisfazioni a chi li lavora. Ecco, è molto divertente che in varie parti d'Italia i nomi dei pesci, un po' così come succede sui tagli della carne, siano diversi, perché sicuramente maccarello è come viene chiamato a Ischia, in altre aree è lo sgombro, se non erro. Sì, è proprio lo sgombro, sì. Quindi magari appunto bisognerebbe fare anche delle carte multilingue per quanto riguarda il pesce. Senti Umberto, ci voglio anche, si parla di pesce, l'estate, però a Ischia c'è una cosa molto particolare, che è un piatto che è il coniglio all'ischitana. Ci vuoi dire due cose molto veloci sul coniglio all'ischitana? Ma il coniglio all'ischitana è un piatto immancabile, soprattutto è il piatto della domenica di ogni famiglia ischitana. Qui ormai siamo 60.000 stanziali e tutti quanti insomma ischitani doc, e la domenica basta passeggiare per le piazze dei vari comuni dell'isola e l'odore è quello che contraddistingue la domenica, insomma, il coniglio. Diciamo che come ricerche storiche è stato appurato che il coniglio è arrivato ed è stato un regalo dei Greci, che nei loro viaggi insomma nel Mediterraneo si fermavano sulle isole che trovavano lungo le loro rotte, mettendo giù liberi delle coppie di conigli che notoriamente si riproducono con una certa facilità. Di conseguenza poi qualcuno dice è stata quasi una guerra tra uomo e coniglio, perché i conigli hanno cominciato a divorare tutto quello che trovavano nel terreno. Gli ischitani erano grandi contadini oltre che buoni pescatori e quindi hanno dovuto cominciare a combattere questo problema che era diventato endemico mangiando il coniglio, se no altrimenti sarebbero stati mangiati dal coniglio in realtà. Grazie Umberto Prego. Del ristorante Umberto Mare Ischia. E ora da Ischia andiamo in un altro posto molto importante del mangiare nell'acqua, ma soprattutto per una specialità di pesce, soprattutto crudo. Andiamo da Luciano Zazzeri, ristorante La Pinetta Bibbona. Buongiorno Zazzeri. Buongiorno Davide. Lei è considerato, come posso dire, il guru del pesce crudo. Finalmente in Italia abbiamo qualcuno che così contrappone un po' ai giapponesi, questa tradizione giapponese. Senta, si ha l'impressione da lei di mangiare coi piedi nell'acqua? Sì, siamo vicinissimi, a parte ora che sono gli ombrelloni, purtroppo, che ci separano dal mare. La bellezza è rotta un po' da questi ombrelloni fissi sulla spiaggia e da questi bagnanti che ce l'ho da 40 anni e non li sopporto più, però sembra veramente di essere con i piedi nell'acqua. Anche, questo mi faccio un complimento, anche con i sapori del pesce nostro, che naturalmente cambia. Fa la differenza rispetto a cose conservate oppure cose, come diceva prima, anche di cose venute da fuori, di importazione. Certo. Ecco, bisogna stare molto attenti a quelle cose. Ecco, ora ne parliamo, ma volevo fare una relazione tra Ischia e Umberto Mare, perché anche da lei, anche nella sua zona, la palamita o palamita è importante come pesce. Sì, io lo ritengo superiore al tonno. Anch'io, siamo d'accordissimo. Perché ha una lunghezza in bocca diversa, c'è un'acidità particolare. Il tonno è d'impatto, perché dà il colore all'occhio, riempie l'occhio. E appena si mette in bocca e poi dopo finisce lì. Che questo è un... Però sai, il tonno tira, il tonno. Purtroppo in Italia, se così, si va sempre dietro al vento e non ci si accorge che si è distrutto una specie di pesce, invece abbiamo tanti pesci che sicuramente. Ecco, ce ne vuole dare altre tipologie di pesce che lei utilizza, che sono poco conosciute, però sono di grande impatto in cucina? Sì, io ho una fissazione per il sugherello, per me è un pesce nobile. Per me saltato in padella così con due spicchi d'aglio, un po' di rosmarino o crudo o marinato, insomma, per me si può fare la pasta. Per me lo sgombro è un pesce grandissimo, veramente, solamente gli viene dato le pedate alle cassette, ai sugherelli, perché nessuno li vuole o sono troppo piccoli. Naturalmente io parlo di quello bianco, perché quello nero, certo, di fondale è meno buono, però è un po' più flaccida la carne. Però il sugherello bianco è eccezionale. Poi c'è lo sgombro, naturalmente lo sgombro e il cavallo sono due pesci che vanno. Io stamattina l'ho comprato, il cavallo, anche se è un po' più profumato di mare, di pesce. Difatti l'altro giorno qualcuno me l'ha contestato come se fosse troppo forte, no? Ben venga un pesce che sa di mare, che sa di. Che è robusto, che fa bene alla salute. Ecco, anche lo sgombro è un pesce che però va saputo trattare. Naturalmente con la marinatura gli si leva un po' di sapore di forte di pesce, marinandolo con sale e zucchero si riesce a togliere i liquidi, perciò questo diventa più gentile. Ecco. L'importante però è che sia nostro, perché lo sgombro, quando viene da fuori, dalla Danimarca, da Portogallo, da fuori, è un pesce che non si mangia tanto volentieri, ecco, almeno io. Bene, io credo che appunto il ristorante La Pineta sia molto importante per chi vuole allargare un po' la mente sui pesci e andare su pesci che sono meno conosciuti, ma sicuramente io sono d'accordo, ad esempio la palamita o palamita e l'alla lunga sono due pesci straordinari come gli altri che ci ha nominato Zazzile. Bene, lo ricordo, Luciano Zazzile, ristorante La Pineta a Bibbona. Salve e a presto, Zazzile. Grazie, grazie. Il gastronauta. Eccoci a riparlare dei ristoranti con i piedi nell'acqua. Ovviamente, come ho già detto più volte, è una metafora. Non sempre è possibile veramente stare a piedi nudi, magari nell'acqua oppure nella sabbia. Qualche volta invece lo è assolutamente. Forse è il modo migliore di passare l'estate, di gustare. Io credo che si gustino ancora di più le cose in questa maniera. Magari pensate alla sera con la brezza che arriva, il rumore del mare, insomma, avendo i piedi nudi nella sabbia oppure addirittura nell'acqua, per chi non soffre magari di particolari indigestioni, perché magari si può anche prendere freddo. Ma io credo che veramente che sia straordinario. Abbiamo fatto un giro dell'Italia e abbiamo scoperto tantissimi posti, tantissimi anche piccoli posti, magari non famosissimi, ma che hanno questa peculiarità. E allora continuiamo questo viaggio e arriviamo in Romagna, nella terra di Romagna, che sicuramente d'estate è presa d'assalto dai turisti, da chi vuole vivere un'esperienza gastronomica stando vicino al mare. E allora andiamo da Guido all'Osteria del Mare. Lo ripeto, l'ho già detto, forse l'avevo già detto anche in passato, ho commesso tempo fa un errore, ho chiamato questo ristorante Giorgio e me ne scuso, ma andiamo all'Osteria del Mare a Miramare di Rimini e andiamo da Giampaolo Raschi. Buongiorno Raschi. Buongiorno signor Paolini, buongiorno. Allora si può gustare, si possono gustare i vostri piatti con i piedi nella sabbia? Abbastanza nei piedi nella sabbia, diciamo che c'è, la nostra terrazza si è fatta sulla sabbia, ma non, la sabbia non viene a contatto purtroppo con i tavolini, anche perché non ce lo permetterebbero. E beh, perché insomma togliersi le scarpe insomma sarebbe sicuramente un fatto, sarebbe non molto bello. Sarebbe molto bello. Ecco, ma voi avete un menù molto particolare, perché non è il solito menù in cui si elencano antipasti primi e secondi, ce ne vuole un po' raccontare di questo menù? Abbiamo fatto una scelta, mio fratello, di suddividere il nostro menù in tre tipologie, tra piatti di pesce crudo, piatti di pesce cotto e le paste e i risotti. Quindi all'interno di queste pagine del menù troviamo sia antipasti che secondi piatti, però vengono distinti in questa maniera qua. Quindi non è un classico menù antipasti primi e secondi, però vengono riportate queste tipologie di pesci con determinati tipi di cottura. Ecco, ma voi avete anche dei piatti molto, molto particolari, che sono così magari dei riferimenti a piatti, che ne so, tradizionali, internazionali, poi interpretati alla vostra maniera. Certo, sì. Ce ne vuole parlare? Nei piatti di pesce crudo proponiamo la rivisitazione di quella che può essere una pizza di frutti di mare, dove non troviamo pasta e farinaci, ma solamente una base di pomodoro con gli aromi e i sapori della pizza ricoperti da una sorta di, no, una sorta, diciamo dei pesci crudi, dei molluschi, dei crostacei crudi che percorrono un pochino quella che era l'ideologia, la tipologia di una pizza di frutti di mare classica che si mangia qui da noi in Riviera. Per poi passare a un carpaccio di cefalo col basilico, un cefalo che è un pesce un po' blasonato da noi, dove però si trova in abbondanza nel nostro mare, e quindi viene proposto a crudo col basilico, con l'olio e limone, semplicemente con un po' di fuorizio e sale di Serbia. Nei piatti cotti, fra i primi, la seppia con lo squacquerone, che è diventato un po' un nostro classico. Ecco, le nostre, stupendo, qui la fermo perché sa, molti nostri radioascoltatori, certo, non conoscono cos'è questo straordinario formaggio che è lo squacquerone. Ce ne vuol parlare di questo? Cos'è lo squacquerone? Lo squacquerone è un formaggio fresco tipico qui della nostra zona, della Bassa Romagna. Viene preparato con latte vaccino e produzione quasi giornaliera, diciamo. Noi compriamo direttamente dal caseificio di San Patrignano, quindi un prodotto fresco che andiamo a prendere direttamente su noi in comunità. Ed è un formaggio molto morbido, molto acido, con un sentore di latte molto acceso. E per intenderci può assomigliare a una crescenza, a uno stracchino su del nord, in linea di massima. Però è molto più morbido, molto più leggero. Ecco, ci dà qualche altro piatto? I piatti cucinati, dopo finiamo su quello che è un classico anche del ristorante, sempre negli spaghetti, è lo spaghetto con le ostriche, un piatto che è venuto fuori qualche anno fa, che ci sta dando tante soddisfazioni, un piatto molto semplice ma con dei sapori molto, molto particolari. Bene, allora sì. lasciamo Rimini, lasciamo Miramare di Rimini, lasciamo il ristorante Guido, grazie Guido, appunto, dove si può mangiare sulla spiaggia, come avete sentito, non si possono mettere i piedi nudi, vabbè, questo ci passiamo sopra, però si mangia veramente sulla spiaggia, sulla veranda della spiaggia. E andiamo a Marina di Ragusa, andiamo sul lungomare. Sul lungomare c'è veramente un bellissimo posto di legno bianco che veramente attira l'attenzione, che è proprio anche questo con i piedi nell'acqua, perché sicuramente l'acqua è molto vicina e appunto ed è costruito sulla spiaggia. Andiamo alla trattoria da Carmelo. Buongiorno a Simona Iacono. Buongiorno signor Paolini. Bene. Come diceva, in effetti siamo proprio sull'acqua. Se, quindi diciamo, io ho mangiato in periodo in cui non si poteva stare ancora sulla spiaggia, ma si può mangiare anche sulla spiaggia? No. Quindi è una veranda. Quindi sulla veranda della spiaggia. Senta Simona, oltre a uno straordinario couscous che si mangia da voi, molto particolare, anzi ce ne parli, com'è il vostro couscous? Assolutamente artigianale, la semola la lavoriamo noi, infatti. Diciamo che riprende un po' la tradizione del trapanese, del couscous, però ci piace molto personalizzare i nostri piatti, infatti ha dei sapori un po' più decisi con la cannella, le mandorle, le varie spezie. tipiche, insomma, che vanno messe nel couscous, e poi lo serviamo con questa piccola zuppa di pesce, che ha all'interno un trancio di pesce da zuppa, che può essere cernio, scorfano, comunque pesci piuttosto polposi, frutti di mare, crostacei, calamari, gamberetti, è abbastanza varia. Il pesce viene messo sul couscous, sulla semola, e poi il sughetto servito a parte per bagnarla a mano a mano. Diciamo che è un doppio piatto, insomma. Sì, si può fare il couscous unico, e sì, si può mangiare. Ci dica qualche altro piatto? Io ricordo gli spaghetti con i ricci di mare. Sì, i ricci, che in questa zona sono tra l'altro molto buoni, di ottima qualità. È semplicissimo, è un semplice piatto, spaghetti saltati in padella con i ricci a crudo sopra, che insomma già danno al piatto una bontà straordinaria, perché essendo di qualità i ricci basta metterli a crudi sopra e sono già perfetti. Ecco, d'estate, in questo periodo, quali sono i pesci, diciamo, che si possono trovare, che si possono mangiare al forno, arrosto, in altra maniera? Pesci sicuramente locali, quindi saraghi, aiole o marmore, venticiotti, piuttosto che... Come ha detto, venticiotti? Denticiotti. Ah, denticiotti, quindi piccoli denti. Denticiotti, sì, chiamo denticiotti perché è raro trovarne molto grandi, quindi affettuosamente li chiamo denticiotti. Sì. Piuttosto che cernia, appunto, come dicevo, anche pesci da zuppa si trovano in abbondanza, e crostacei, quindi scamponi, gamberi da mangiare arrosto o crudi, sono ottimi. E per chiudere, cosa si può assaggiare? Per chiudere, i nostri dolci, così chiudiamo proprio il pranzo, la cena, con un dolce che può essere tipico, quindi con la ricotta, che insomma qui la ricotta è piuttosto di qualità, utilizzata, sì, sia nei piatti da pranzo che anche nei dolci. E poi si può andare a fare un bagno, ovviamente. E poi si può, assolutamente si deve andare a fare un bagno, anche perché dopo una bella bottiglia di bollicino, di vino rosso, ci sta un bel bagno per riprendersi. Bene, grazie a Simone Iacono della trattoria. Grazie, signor Paolini, buongiorno. Da Carmelo sul lungomare di Marina di Racusa. Ma ora chiudiamo questa trasmissione con un posto a cui io sono molto affezionato. Andiamo a Portonovo, al clandestino di Moreno Cedroni. Buongiorno Moreno. Moreno, allora, quest'anno, visto che questo posto è già di per sé magico, perché sicuramente di sera lo ritrovo un posto veramente fantastico, però dentro c'è anche la magia di una proposta di cucina che in questi anni è stata all'avanguardia, che ha portato avanti questo discorso appunto di Moreno Cedroni, del sushi all'italiana, ma scritto anche in maniera italiana. Allora gli chiedo, qual è la novità di quest'anno? Ma dopo il successo del tema dell'anno scorso, del sushi a colori, delle ricette classiche con il crudo di 2 anni fa, quest'anno il tema è figlio dei fiori, quindi il crudo è figlio dei fiori. Praticamente ogni piatto ha un fiore in abbinamento. Quindi molto romantico. Ma sì, è romantico, ma sono venuti fuori anche degli abbinamenti molto ma molto buoni. Si parte con un mojito con la lavanda, quindi l'omaggio a Portonovo, che adesso la vede sbocciare nei campi prima della discesa verso la baia. Poi praticamente la viola la fa da padrone con la ricciola, il glicine sul rombo, l'anice stellato sulla capasanta, la camomilla sullo spinosino, e infine la rosa bianca avvolge un trancio di baccalà. Quindi mi sembra, Moreno, che ci siano tutti gli ingredienti, cioè c'è la romanticità del posto, c'è un cibo che potremmo definirlo afrodisiaco, e poi c'è anche questo fatto dei fiori, quindi credo che sia anche un posto romantico. Allora, beh, a sto punto ci sono tutti gli ingredienti per una grandissima serata d'amore. Sì, e c'è anche, quando arrivi, oltre il profumo della macchia mediterranea, c'è anche un fico lì attaccato allo scoglio a 3-4 metri dal mare, che in questo periodo emana un profumo incredibile. Bene, allora ci sono veramente tutti gli elementi. Grazie a Moreno Cedroni, il clandestino di Portonovo. E quindi, diciamo, a questo punto non ci resta altro veramente che buttarsi nell'acqua, perché abbiamo già mangiato molto con i piedi nell'acqua, e facciamoci un bellissimo bagno. Allora non mi resta che dare appuntamento a domani con il riposo del guerriero, e ogni giorno dal lunedì al venerdì con la pillola del gastronauta, e buon viaggio e buon cibo, magari alla fine facendo un grande tuffo nelle splendide acque, quelle poche italiane che sono veramente ancora molto ma molto sane. Buon weekend a tutti.